che i nostri canti possa turbare tutto il silenzio, nessun qui sta, che i nostri canti possa turbare tutto il silenzio, nessun qui sta, che i nostri canti possa turbare. Fiorello, alla, signor son qua, e ben gli amici son pronti.